vorrei pensare che in fondo non è poi così male. Sofia porta sempre gli occhiali per non far vedere cosa le piace guardare. Sofia si fa sempre fotografare da una madre che non riesce più a sopportare. Sofia dipinge senza una mano la condanna alla libertà dell'umano. Un giorno la incontrai e mi parlò così. Le poesie sono belle se hai qualcuno a cui poterle dedicare. Canzoni sono belle se hai qualcuno a cui poterle cantare. Sofia sa che produttore non può certamente intendersi di arte. Sofia preferisce l'autenticità piuttosto che privarsi della sua integrità. Un giorno la incontrai e mi parlò così. Poesie sono belle se hai qualcuno a cui poterle dedicare. Tutti i fiori sono belli se hai qualcuno a cui poterli regalare. Sofia ama correre e pensare che in fondo non è poi così male.